finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere da 22:51 minuti primi. Al fine ci siamo sbarazzati di elettrodo. Lo lasci sfogare quei 10-15 minuti, lo è contento se ne pazzo. Sì, no, ma è sempre bello comunque il passaggio fra. Ma lui? Dici parte... lui? Sì, anche lui è un bell'uomo. Però il passaggio, diciamo, quando arriva oltre, quando elettrodo va oltre, cioè che verso quando la fine, esagera, insomma. Quando esagera, sì, è bellissimo. Basta che poi lo chiudi nello stanzino e... Sì, dopo normalmente lo chiudiamo nello stanzino e... Ma chi ci abbiamo qui? Di chi è questa voce? Ma è da parecchio però che stiamo trasmettendo noi, se non... Sì, ma... Attraversando però il muro del tempo. Esatto, esatto. E dalla redazione allargata di... Sì, sì, comunque ci stai, eh. Dalla redazione allargata... Il telefono... No, il telefono è un trillo questo. Sono i fans. Dalla redazione allargata di 25 O'Clock, vediamo questa sera se riusciamo, questa notte riusciamo a creare una sequenza illogica, però una sequenza. Alzo il cappello per Pipino... Dai, è bella. King Size, quindi a 25 O'Clock, la redazione allargata, come amiamo dire, Magnetizer, che ci viene a trovare di tanto in tanto. Però siccome lui è avvezzo a queste frequenze, a questi studi, gli chiediamo di posare l'apparecchio famelico e di ricordarci che cosa stiamo ascoltando. Eh? Un po' ruggine. Cioè, se sei qui per caso oppure... No, no, non sono qui per caso. Diciamo che il volume della cassa in studio è abbastanza basso. Per cui in realtà tergiverso, non ne ho la minima idea di cosa stiamo ascoltando. No, che cosa stiamo ascoltando? Cioè, che... Ricominciamo da capo. No, che cosa stanno ascoltando da casa? Ah, cosa stanno ascoltando? Che è 25 O'Clock questo? Ah, sì, sì, sì. Ok. Si è ripreso, dai. Dove trasmette 25 O'Clock? Allora, questa la sapevo. 87.9. Bravo, sì. Banda in FM romana e laziale. Questa sì. È Radio Onda Rossa. Wow. Che redazione allargata preparata abbiamo, Andiamo sul difficile adesso. Qual è il sito di riferimento della radio? La so. Posso dirla io? No, è una che... Vabbè, dai. www.ondarossa.info. E cosa ci fanno le ascoltatrici e gli ascoltatori con www.ondarossa.info? E... possono e devono rimanere aggiornati su tutto quello che succede in città e non solo. Quindi corrispondenze della giornata che mano a mano registriamo, i podcast delle trasmissioni e il palinsesto della radio. Palinsesto della radio, tutto. E poi che c'è, andando su Sostieni, cosa si fa? Si può aiutare a mantenere viva questa radio libera dal 1977. Anche se dopo queste prestazioni, diciamo quella finale di Elettrodo e quella iniziale di oggi, non varrebbe molto la pena. Però Radio Onda Rossa per fortuna è molto di più. E c'è anche dell'altro. Dai, vai. Vabbè, allora io mo ve lo dico perché guadagno punti, no? Che mentre aspettavo voi, perché se vedemo alle 7 che dovevamo registrare, mi è arrivato un ascoltatore e mi ha lasciato in mano 20 euro che mo abbiamo lasciato nel cassetto. Ma noi ancora dovevamo ancora trasmettere, però per quello. E questo diciamo che non va a nostro favore. Però comunque la radio è di chi la sostiene. Dai, se non l'avete capito, facevano i finti tonti, Vabbè, insomma, 61 80 40 01, il numero di conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. 0085 Roma San Lollo. Io devo al C56, però non l'avevamo detto. Vedi che ci stanno problemi con quell'asta? È questa, sì, anche. Eh sì. Vai. Cede l'asta. Cede. Io già sono nano, poi sto sulla sediolina delle elementari e l'asta la cede. Allora, siccome noi appunto andiamo tra virgolette in onda già da parecchio tempo, benché non ve ne siate accorti, continuiamo con quello che stavamo facendo prima. Che le birre, la pizza o le sigarette? No, le chiacchierate che facevamo prima. E si parlava proprio di loro, ma voi non lo sapete. Ed è una cosa che amano entrambi i co-conduttori, questa intro e quello che segue. Ricordi di quando eravamo ragazzi? E dato che avevano già trillato, noi mandiamo da capo China. Cosa c'è dietro? Quanto vale? Cosa c'è dietro il muro? Sale dal vuoto, la nostra voglia di esistere e continuare a crepare. Non so se sapremo arrivarci in fondo, non so proprio dove si potrà arrivare. Devo pagare la mia vita e quanto vale la mia merda. Un'esplosione distruggerà tutto. Sale dal buio la nostra voglia di vedere cosa c'è dietro il muro. Sale dal buio, sale dal vuoto la nostra voglia di esistere e continuare a correre. Sale dal buio. Dalle fattorie nei dintorni di Aosta dove i China di Se ho visto se ho perso andavano a provare correggono giustamente. Esistere e continuare a sperare. Sale dal buio. Se ho vinto o se ho perso. Sale dal buio la nostra voglia di vedere cosa c'è dietro il muro. Sale dal buio. Ci spostiamo invece alla campagna Sabazia. Dai cantieri di Anguillara. Working class ci trillavano. Due cosette sull'OI le volevo proprio dire. Mi venivano ascoltando appunto questa traccia degli Automatica Aggregazione da Anguillara Sabazia. E quello che mi veniva in mente era appunto che l'OI nasce agli inizi degli anni 80 come quel filone del punk molto legato in realtà poi al quartiere, ai posti di lavoro, a una vita di strada. Tutto fatto con suoni molto semplici e molto schematici, che però appunto si riproducono negli anni. E quello che mi veniva in mente era proprio da questa nascita ormai tanti e tanti anni fa, come poi certi testi invece poi ricombacino assolutamente con la realtà di tutti i giorni, proprio questi giorni qua di lotta in cui appunto si resiste, si cerca di tirare avanti il lunario, perché sbarcare il lunario, di tirare avanti la baracca, perché appunto si è arrivati proprio al limite, al margine massimo. E poi ci si chiede appunto perché. Ci si chiede perché vengano poi organizzate queste settimane da parte di tanti settori così sociali e politici di questa città e in tutta Italia. È carino vedere i giornalisti, i mass media, capito, che si stupiscono che ci siano tante iniziative organizzate in questi e nei prossimi giorni. Volevate dire? No, sono già mesi che si stupiscono prima che accada qualcosa, quindi uno stupore eterno. Vabbè, ieri torniamo a noi, a tutti i pennaroli. Una volta si chiamavano pennivendoli, manco a vende, insomma, sono venduti il cervello. Andiamo avanti col punk, sempre dall'Italia. E come diceva il buon fantasma, sta ragazza c'ha una bella canna. Allevatore di morte, Livore. E ovviamente loro non mangiano ciccia e derivati. Aspetto, ripeto, resisto. Affondo le unghie. Destroy Your System, band non più in attività mediamente, ancora da capo. Noi ci prepariamo così, Onda rossa 87.9 della modulazione di frequenza 25 o'clock 0649 1750. This in modo da non farci vedere l'arma che usi per ladere al suolo. Clash, altra punk band di hardcore melodico. L'invasione degli omini verdi. Prenditi il meglio di me. Inizia così praticamente questo lavoro. First out of the blocks, Tommy Smith running pretty well so far. And in lane two, Bombook is strong on the outside. It's Edwin Roberts. It's John Carlos right now. It's Carlos and Smith. And here comes Tommy Smith. 1968, un ottobre caldo, Centro America, Messico. Una fiamma vecchia secoli brilla da qui sullo sguardo dei popoli. Anni dove per un'altra fiamma calda di speranza molti parlano, cantano. C'è chi ha scelto di combattere, di resistere. C'è chi ha scelto di correre. Soltanto sotto lo sguardo del mondo. Pensa che per quanto conti qui la sorte, per quanto dure le gambe, il cuore che spinge più forte. Signori si parte, tutti in posizione. Nel silenzio scoppia il colpo e Tommy Smith corre. Di 20 secondi non ha nessuno davanti. Difila uno all'altro. Certo adesso Tommy ha vinto, adesso non è un negro, adesso Tommy è Ameri. I Resis. Si dice per la farsa, ma siamo uomini. Tommy Smith. Cani da corsa, sale sopra il podio, porta la medaglia al collo e mentre parte l'inno. A tutti quelli che emigrano, che sono deportati. Nero come rabbia, nero come nero questo silenzio. Perché? A tutti quelli e quelle che molti secoli fa, molti anni fa, furono presi schiavi. Ma poi non così tanti anni fa, eh. Se pensiamo che le leggi razziali negli Stati Uniti sono state dismesse solo qualche decennio fa. Nessuno davanti. Tommy Smith. Passiamo avanti, andiamo verso la zona di competenza del fantasma, anche se intervallata, credo sarà. Da un intervento di King Size. Dicevamo, loro si chiamano Drenge, hanno 20 anni, vengono dalle isole britanniche. Sono andati a rifare una cover di Will Gizzy. Dixon del 1954. E comunque i ragazzi sono ruvidi assai da capo. Drenge, che peraltro in danese, non la loro lingua, significa pischelli. I don't want to make love. You to be my slave. I don't wanna see you again. There's something I've got to do, 'cause I don't wanna make love. Siccome stavamo parlando di cover, un disco intero di cover, questo che sta per andare in onda, si tratta dell'ultimo lavoro 2013, come 2013 erano questi Drange, dicevamo il disco di cover da parte dei Melvins. But please don't stop till I'm reduced to nothing. Take me to the valley in the south. Venom, Queen, and now the Scientists, David Bowie, The Knicks, I Drive, i Fugs. Insomma, c'è di tutto e di più. Fra questa, la decima traccia, cover dei Roxy Music, che senz'altro riconoscerete, ovviamente stravolta, derisa, ma soprattutto resa acidissima e potentissima, The Melvins, Onda Rossa, 25 o'clock. Every dream home, a heartache, and every step I take takes me further from heaven. Is there a heaven? I'd like to think so. Standards of living, they're falling daily. But home, oh sweet home, it's only a saying. From Bell Push to Fawcett, in Smart Town Apartment, the cottage is pretty, the main house a palace, penthouse perfection. But what goes on there? What to do there? Where to pray there? Open plan living, bungalow ranch style, all of its comforts seem so essential. I bought you mail order, my plain wrapper, baby. Your skin is like vinyl, the perfect companion. You float in my new pool, deluxe and delightful, inflatable doll. My role is to serve you, disposable darling. Can't throw you away now, immortal and life-size. My breath is inside you, I'll dress you up daily and keep you till death sighs. Inflatable doll, lover ungrateful, I blew up your body. vi assicuro che non siamo noi ad effettare, qui. Ma ben Roxy Music. Un brano dal titolo per me impronunciabile. Anche io ho rinunciato, dove... In Every Dream Home an Heritage. Più o meno. Potrebbe essere, Finale quasi da sonorità da elettrodo, che sta ancora nello sgabuzzino, secondo me, Appena si calma andiamo a liberare. Mentre invece sono le 23 e 34 minuti primi qui sulle frequenze di Onda Rossa, noi andiamo a cominciare una piccola selezione musicale targata Kinsize H Pipino, e loro, visto che ne parlavamo poc'anzi, anche se voi ancora non l'avete ascoltata, perché abbiamo in serbo una bellissima intervista con un gruppo di punk, hardcore, metal, quello che te pare, proveniente dalla provincia romana, e loro sono gli ultimi e questa è la loro Red Rose. Arriva, perché come al solito io non mi preparo i CD, ma faccio tutto online, generazione 2.0, pure se c'ho i miei 36.000 anni, come dice il fantasma. Laida Provincia, Red Rose. Oh, Allora, se possiamo chiamarlo Oi, questa è Oi italiano, da Torino, Bull Brigade, un album chiamato Strade Smarrite, per l'Amfibio Record. Dopo la pioggia. Però come non è stato mai, e se n'è andata non è qui con te. Che mezzo al traffico ora te ne vai. Torna la polvere nel naso tuo, sempre più forte il cuore batterà. E con il sangue gli occhi fuggi via, in cerca del rispetto ti aiuterà. Allora magari dopo la rimettiamo, però quello che volevo dire a Fefo prima è che lui sì, è tutto quello che riguarda sottocultura, che riguarda strada, che riguarda classe operaia, ma è anche stadio, è anche tifo, è anche quella parte nera del cuore. Meglio se di rugby, ovviamente. No, no, ma si parla anche di calcio e si parla di passione. Perché fondamentalmente non è politica, ma è quello che si vive, e ovviamente ogni volta che qualcuno parla di quello che si vive fa politica. E allora, prodigi della tecnica, che non ci serve un trillino per rimandarla, eh. Visto che abbiamo parlato di rugby, no? Sogni, sangue, cuore di un e che di rugby, mi diceva Fefo, no? Lui è meglio se di rugby. Verso un'altra meta, verso la vittoria. Allora io così vi dico questa cosa, che è cominciato il campionato di Serie C, secondo girone, a pieni punti, nonostante la, diciamo, 8 punti di svantaggio, perché purtroppo non hanno le giovanili, gli Orez sono a pieni punti e loro sono Atarassia Grops, e questa è Orez Rugby Roma. Maglia bianco-rossa, sogni, sangue e cuore di un solo colore, Spartaco corre verso la gloria, verso un'altra meta, verso la vittoria. Lividi e sudore sono la nostra storia. Lividi e sudore sono la nostra storia. Orez Rugby Roma, tatuati sulla pelle e sul cuore. Un passo indietro, passo indietro. Orez Rugby Roma, polvere di terra dentro agli occhi, fango sulle mani, sangue sui ginocchi, bischie dure come barricate, una vecchia canzone dalle gradinate. Saremo sempre con voi, saremo sempre. Noi ci dicono che siamo provinciali perché siamo di Roma, però proprio lui italiano fondamentalmente, oltre le grandi metropoli dove è normale che ci siano gruppi, che ci sia una scena, diciamo è fatto anche dalla provincia, è fatto da piccole realtà che si confrontano con questo genere musicale, ma anche con le proprie passioni e col proprio supporto a una scena che ha visto il suo massimo splendore, diciamo, intorno a metà degli anni 90 fino ai primi anni 2000, e che tuttora poi vede una sorta di melting ricambio pot con altri generi, certo. E ben venga. Comunque, tanto da quello che dicevamo prima, dalle periferie, dalle città di provincia, insomma, quindi abbiamo ascoltato gli ultimi, gli Automatica Aggregazione, che vengono appunto da Anguillara e giù di lì, insomma, gli Atarassia Drops mi sembra che vengono dalle campagne comasche o qualcosa del genere. Gli Erode vengono dalla Brianza, insomma c'è una tradizione proprio di periferia, di suburbia, come si dice, di luogo intorno alla metropoli che comunque è industriale, cioè che comunque c'ha la fabbrica, c'ha comunque uno sviluppo, diciamo, di tipo caotico, e come tutte le periferie poi si becca il peggio, insomma, e la città è un miraggio lontano, è lì che nascono poi tante band. A cui piace appunto suonare così semplice. E allora, visto che ne abbiamo parlato, un altro pezzo di cuore, sempre in quel quadrante di Roma Sud, ovvero zona Cinodromo, noi ci andiamo a sentire due quarti di una band che viene da Fiumicino e loro sono i Rancore. Allora, visto che li hai citati, io te li metto. Questi è, ti ricordi, loro sono Erode. Dalla Brianza. Ti ricordi di quando mi parlavi, tutto si fermava, fino vedere qualcosa, che abbia del colore, fammi sentire qualcosa. Ti ricordi quando mi parlavi delle parole, delle parole, delle parole? Ti ricordi quando mi parlavi delle parole? E dalla provincia italiana passiamo ancora a Roma, loro sono Payback e questa è Die Hard. Il nostro saluto va a Luchino, al marinaio. A Damiano. E ancora da una parte e dall'altra, dalla metropoli alla provincia, un gruppo che abbiamo avuto ospite non oggi, ma che bensì abbiamo registrato poco prima di andare in diretta una lunga intervista. Loro sono Placcaggio Hardcore, questo è tratto dal nuovo album che si chiama Approdo e il pezzo che ci andiamo per sentire è Suoni nelle tasche. Ovviamente siete ancora sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze di Onda Rossa, è mezzanotte precisa. Siamo entrati nella 25 o'clock, eh? È un brano dedicato a tutti quelli come noi che non sono nati e cresciuti nell'era di internet, nell'era delle cassettine, dei 7 pollici, delle autoproduzioni, niente MP3 scaricati, lunghi viaggi verso disfunzioni, di quello che si rimediava, della fame di conoscenza di quello che ancora non si conosceva. Suoni nelle tasche. Di quando ti registravi le trasmissioni di punk di Oi proprio dalle frequenze di questa radio. Audiocassette scantinati. Placcaggio hardcore, suoni nelle tasche. E va così, eh. E allora adesso non me ne voglia il fantasma, che lo metto un po', come dire, nella cacca per questo cambio di suoni, ma loro sono un gruppo di Roma, si chiamano Broke Speakers, non fanno punk, non fanno Oi, fanno rap, ma secondo me è la versione più punk del rap che può esistere. Il saluto va a Lucci in particolare, che ha suonato proprio a settembre per Renoiz, e questa è la mia natura. E fa così, fa così, che certe cose non le cambi secco, cambi secco, e fanno parte di te, parte di te. E ognuno la sua croce. Perché il contenuto non lo fa la scatola. Da ragazzino ogni viaggio l'ho fatto su una Fiat Ritmo. Forse lo fanno i capelli rasati, non lo fanno le creste. Ma sempre per via dell'affitto. Lo fa quello che fai e quello che dici. Registro chiaro, a 12 anni erano 9 traslochi. Gli scatoloni dei giochi sempre più piccoli, sempre più vuoti. E stavo fuori dalla classe, dalle mie casse. Ascoltavo Nassera, Catch Yourself a Gun. Non ascoltavo il ritornello per le masse gay. Lasciavo pezzi di cervello sulle casse rave. Non ci ripasserei, succedesse che farei. Toglierei le paste dalle tasche degli amici miei. Messi male tipo Castaway. Fare il prepotente, ma probabilmente sequestrate le mangerei. Non do sfogo alla dipendenza, ok? E provo in ogni modo a viver senza. Ma ehi, ho preso botte per colpa della mia testa dura. Devo essere forte per combattere la mia natura. Io non lo so se a tutto c'è una cura. Senza l'armatura la pace quando arriva non so quanto dura. Ho preso botte per colpa della mia testa dura. Devo essere forte per combattere la mia natura. Io non lo so se tutto sia una cura. Senza l'armatura la pace quando arriva non so quanto dura. 15 anni, guerra in testa e niente affitto. Da solo su una strada e mi sentivo sconfitto. Mia mamma in ospedale con il suo cuore trafitto da ogni colpo che la vita e questo mondo le ha inflitto. Oh, e poi gli impicci per sentirmi più dritto. La rabbia dentro al petto che non ti fa stare zitto. E il mio nome su ogni muro io per questo ve l'ho scritto. Perché l'odio qua giù a volte va su ed è sempre più fritto. Oh, e non ho vinto mai, ma alla fine ho vinto sempre. Perché adesso ho tutto e prima non avevo niente. Perché non perdi niente quando non hai niente. Ma puoi cambiare, andare su fino al sole che splende. Tu dai, dimmi come fai ad affrontare questa vita. Spingo forte anche in salita fino a che non è finita. E gioco la mia partita con l'amore e col cuore fino a quando la mia testa è partita. Ho preso botte per colpa della mia testa dura. Devo essere forte per combattere la mia natura. Io non lo so se a tutto c'è una cura. Senza l'armatura la pace quando arriva non so quanto dura. Ho preso botte per colpa della mia testa dura. Devo essere forte per combattere la mia natura. Io non lo so se a tutto c'è una cura. Senza l'armatura la pace quando arriva non so quanto dura. Hey, mi dici Luci, perché scrivi solo cose tristi? Perché quando sto felice esco, lo capisci? Ho messo la mia vita sopra i dischi. Se fosse un grande gioco del Monopoli, ho preso gli imprevisti. Non sono di nessun quartiere, ne ho abitati troppi. A fingere di non vedere ho perso troppe notti. Da piccolo ho assetato di sapere, sapendo che il sapere spezza pure le catene. Lo leggi dentro agli occhi, cadendo sei cosciente di cadere. Ma se guardi come fanno gli altri impari a farlo bene, l'ho imparato. Lo sai che so cascato mille volte, ma il sorriso quello no, non me l'hanno mai levato. Soldato addestrato in una giungla di cemento armato. Vivo dentro tra una trincea da solo e disarmato. Questa è la mia natura, il modo in cui sono nato. Il bicchiere mezzo vuoto, lo bevo tutto d'un fiato. Ho preso botte per colpa della mia testa dura. Devo essere forte per combattere la mia natura. Io non lo so se a tutto c'è una cura. Senza l'armatura la pace quando arriva non so quanto dura. Ho preso botte per colpa della mia testa dura. Devo essere forte per combattere la mia natura. Io non lo so se a tutto c'è una cura. Senza l'armatura la pace quando arriva non so quanto dura. Sai, ora so che certe cose non cambiano mai. Non esistono in sé, è troppo tardi per piangere. Sai, ora so che certe cose non cambiano mai. Non esistono in sé, è troppo tardi per piangere ormai. Mezzanotte e 9 minuti. Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questo è sempre 25 o'clock. E visto che non è importante come ti rasi, se ti rasi, la toppetta figa, l'importante è quello che fai. E loro sono i Dropkick Murphys, Do or Die. Thank you. Johnny come again, home again, around, to love. She come in by bus or underground, around, to love. A woman that will shed a tear to see his face so beautifully fair. She turned around the corner and the English said, oh, still at the stage of clubs and then around, to love. E dopo i Clash, bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul. Andiamo a riproporre. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. Dalla Val d'Aosta, i China. Questo è un pezzo che ha richiesto proprio Sergio Milani. Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than... Nell'attesa che ci dia maggiori informazioni su quello che è il suo nuovo progetto, gli Ombra. Oh, there's blackjack and poker and the roulette. Una proposta folk punk. And lost on every deal. All you need is strong heart and a new steel. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. E questo è l'assalto del tempo. Ogni giorno resisto all'assalto del tempo, alle inutili dichiarazioni. Ma

con l'infezione. Adesso invece ci andiamo ad ascoltare l'Urlo Nero. E loro sono i Wretched. Libero e selvaggio. E visto che la rabbia, il dissenso, il disprezzo possono avere un colore, noi siamo i Wretched di Milano, la logica del potere, e il colore può essere il nero. Nero orgasmo. Senza sonno verità è quello che ci vede a guardarci. Fai suonare il nostro genere come un fiore dietro, continuare eternamente. E questo credo dall'unico disco dei Nerorgasmo del 1993. Formazione di Torino. Delle vetrine in centro sono cose morte, sangue e merda. E visto che ci stiamo addentrando in questi territori, quello che non vuoi. 1984 dall'EP Vivi. Loro sono i Crash Box. A cambiare un po' registro. Ci spostiamo su suoni più saturi. Questa è un'uscita per Rise Above Record. Loro sono gli Admiral Sir Cloudsley Showell. Ce li riascoltiamo da capo. We'll be right back. ed in vista delle manifestazioni di questi giorni. Sì, perché praticamente già in queste ore, in questi momenti, già nei giorni scorsi si sono perpetuate riprodotte le azioni proprio in preparazione del 18 e 19 di ottobre. Tante azioni, tante anche occupazioni di stabili qua in città, e appunto ci avviciniamo a grandi passi, a grandi falcate, alle date appunto conclusive di questa settimana di lotte indetta così dai movimenti. Sì, insomma, ci avviciniamo a grandi passi, quindi ci saranno appunto queste due grosse manifestazioni. Non possiamo assolutamente dire, nostro malgrado, che ci sia un clima sereno, perché appunto certa stampa ha avvelenato abbastanza, a cercare appunto di avvelenare il più possibile gli animi, creando praticamente un'aurea terroristica intorno a quanto dovrà succedere in questi due giorni, che ripetiamo sono di lotte, come molte volte in tanti hanno ripetuto. Non sono sicuramente conclusivi di nulla, anzi semmai sono un momento per riconoscersi, per stare insieme in piazza, per trovare appunto territori e percorsi comuni fra tutte le emergenze, le insorgenze che ci sono nel mondo del lavoro, nel mondo della casa, del sociale, nel mondo della lotta contro le nocività e contro le grandi opere inutili. Quindi appunto il nostro malgrado si è creato questo clima e vogliamo comunque comunicarvi quanto segue. Naturalmente ci auguriamo che non ci sia la necessità vediamo come indicazione comunque. Se ci dovessero essere problemi di tipo legale, diciamo, durante le giornate, che il telefono di Rete Visione ti metterà in contatto con gli avvocati disponibili. E quindi Rete Visione 331 7267 262, o 342 00 33248. Vi vogliamo ripetere di nuovo dicendo anche che dovete portarli con voi questi numeri in qualche maniera. Un consiglio molto utile che si fa è quello di segnarlo su un braccio. E quindi 331 7267 262, oppure 342 00 33 248. E appunto si è organizzato quindi un collegio legale che appunto ci servirà qualora appunto ci dovessero essere qualsiasi problema di questa natura, insomma, delle perquisizioni, dei fermi, delle provocazioni da parte delle forze dell'ordine. Quindi questi due numeri, che ripeto per la terza volta, magari se avete preso nel frattempo carta e penna, 331 7267 262 e 342 00 33 248. E dai, dopo magari mandiamo un'altra cosa e poi vi parliamo un po' del diciamo altre due cose sul 18 e sul 19. E questi erano dall'Inghilterra i Parson, uscita per la Reservoir Records. Ci siamo ascoltati dal disco che è The Circle and the Blue Door, la terza traccia. Dall'Inghilterra ci spostiamo in California. Loro sono i Dead Mido. Mezzanotte 53, loro sono i Golden Void. Dal loro disco omonimo del 2012. Vi andiamo a ricordare su queste note dilatate i nostri contatti, quindi scrivete e fatevi sentire che esistete. 25 o'clock@ondarossa.info o fantasma@ondarossa.info. E continuiamo il rito di ottobre ascoltando un altro brano da quello che è October Rust dei Type O Negative. E questa è la loro versione di Cinnamon Girl. We'll be right back. E mentre leggo 15 minuti là, minuti di artefazioni lisergiche. Quindi 18 ottobre, sciopero generale indetto dai sindacati di base a cui hanno aderito anche alcune organizzazioni dei lavoratori non concertative. E soprattutto sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici. Il 19 ottobre, corteo nazionale assediamo, austerity e precarietà. E in più vi chiediamo di rimanere in contatto anche con le radio di movimento, con Radio Onda Rossa, che comunque vi terranno informate passo passo di tutti gli avvenimenti che ci saranno da qui al 18-19. Sappiamo che ci sono un po' di problemi, o c'erano almeno un po' di problemi fino a questo pomeriggio con i treni, però i compagni e le compagne si sono mosse e mossi presso proprio Ferrovie dello Stato, per superare anche questo ostacolo alla mobilità che viene frapposto affinché i cortei siano partecipati a dovere. It was the day. It was the death of a rude boy. He had a certain way with women. He was natty and the men had rhythm. He was known in all kinds of places. He was wicked with the names and faces. He was a lover through and through, who may always make time for you. He had his own kind of flavor. He walked like a stepping razor. Men could drop a killer move, never failed to bust a groove. He always keep a cool, cool head. Hear me when I tell you dread. Ve li ricordate i Rude Boy? Ragazzotti che giravano per i quartieri neri. You have to learn to stand and fight. Di Londra, di Brixton. When all is said and done, you must stand up for what is right. Di Brighton. Side of conscious, make sure you live in light. Don't go down, don't fool around, hold your ground, don't be proud. Make sure that love is in your life. Ragazzotti che spesso finivano in carcere. Ma non per questo smettevano di essere ribelli. Ribelli alle leggi, alle convenzioni. Ribelli alle autorità. Forse un po' ignoranti, ma conoscevano le leggi della strada e la cultura degli ultimi. Quindi dalla metà degli anni 60 al 2012, Madness, i Rude Boy sono morti. Death of a Rude Boy. Ci sono nuovi, altri Rude Boy. Evviva i Rude Boy. Eh sì. Le vogliamo leggere tutte le pagine di questo libro. E perciò 25 o'clock spazia Fat Freddy's Drop dagli antipodi, dalle terre di Nuova Zelanda. Ricordiamo perciò che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale 06491750, lo sapete. 6180401. Il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Golci 560185, Roma. Perché noi viviamo attraverso le vostre sottoscrizioni e continuiamo a trasmettere al meglio che possiamo. Le trasmissioni della radio vanno a finire qui. Per questa notte vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Zara. Mother. Domani la programmazione riprenderà con la lettura delle prime pagine dei giornali redazionali della mattina, la rassegna stampa, ovviamente la rassegna stampa cittadina. Miss Palinchenko, che è la nuova trasmissione, l'osservatorio antifascista, quello è come la Fenice rinasce dalle ceneri di Maldestra. Alle 13 giornali radio, spazio comunicazione a seguire, Visionari, Teatro Valle Occupato, Attica Blues oltre la scena, oltre la black music, La Schiena del Soul, Profondo Rosa, giornale radio, spazio comunicazione, Allegro con Fuoco, In Octibus Panis e Apostasia. Questa è la selezione. La rassegna veloce delle trasmissioni per la giornata di domani. Saluto più importante va a tutti e tutte coloro costrette a condizioni di limitata libertà personale. Il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari. E mentre proseguono i processi di devastazione e saccheggio, anche per i fatti del 15 ottobre di 2 anni fa, vi ricordiamo di scrivere ai nostri compagni reclusi condannati ormai in via definitiva. Per Genova 2001, Marina Cugnaschi, presso la seconda casa di reclusione di Milano Bollate, via Cristino Belgioioso 120-2157 Milano. Alberto Funaro, il nostro fagiolino, casa circondariale Cavanne, via Prievaiola 00163 Perugia. Francesco Pugliesi, Jimmy, casa circondariale di Roma Re Bibbia, nuovo complesso, via Raffaele Maglietti 70-00156 Roma, braccio G9, secondo piano. Comunque, se andate sul sito della radio, Chi devasta e saccheggia, Solidarietà Marina, Alberto e Francesco, troverete tutte le indicazioni per tenervi in contatto con questi compagni. Noi ce ne andiamo sicuramente, bella così, sotto la luna comunista. A mercoledì prossimo. Buonanotte, a mercoledì prossimo. Buona. our dreams, I'll share our dreams under a communist moon.